Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo come sempre di borse che oggi perdono anche in maniera abbastanza netta nel caso di Francoforte e soprattutto di Parigi, meno 0,70% Francoforte, meno 0,50% Parigi, Milano meno 0,45%, Londra praticamente siamo a uno 0,03% invariata. L'America invariata, ma parleremo anche e soprattutto della vicenda della fabbrica ex Bertone, ossia l'apertura a sorpresa della FIOM, della FIOM in quella fabbrica all'offerta della Fiat, che spariglia di fatto le carte rispetto sia alla posizione della FIOM su base nazionale e nelle vicende Fiat, quindi ricorsi nei tribunali per la vicenda Pomigliano d'Arco e anche per la Newco su Pomigliano e la vicenda Mirafiori, ma spariglia anche le carte all'interno della CGIL, perché chiaramente nessuno si immaginava un'apertura della FIOM nei confronti della Fiat in una fabbrica come quella della Bertone. E ne parleremo più avanti, abbiamo anche un'intervista con la rappresentante sindacale unitaria della fabbrica. In apertura invece un tema che può sembrare un tema minore, ma in realtà non lo è, lo trovate oggi su molti giornali, è una polemica che striscia ed è strisciante da mesi, sui buoni pasto. In realtà praticamente i buoni pasto che servono a milioni di dipendenti, di impiegati per mangiare a pranzo di solito, ma c'è anche chi li usa per altri motivi, c'è un boicottaggio in corso da parte dei commercianti che ha un motivo molto semplice, cioè la compressione o la pressione sugli margini e gli utili di questi buoni pasto. Ripeto, può sembrare un tema minore, in realtà coinvolge milioni di persone. Poi, come promesso, avremo il presidente della Confagricoltura, chiedo Venia, che doveva essere il nostro ospite venerdì, e poi è successo di tutto, non, figuriamoci poi ieri con Bin Laden. E ancora continuerà il nostro viaggio verso le assise di Bergamo di sabato, e quindi avremo un altro esponente del mondo delle piccole imprese, della piccola impresa di Confindustria, e se ce la facciamo anche ospite il numero uno della SEA Aeroporti di Milano, oggi infatti assemblea, ma soprattutto la società andrà a quotarsi in borsa. Rapporto di cambio euro-dollaro, volete già sapere, a quota 1,4846, quindi sempre forte, non molto mosso. Va detto sui titoli, segnalo che particolarmente deboli sono Tenaris meno 2,90, Pirelli meno 2,30 come Fiat, Buzzi Unice meno 1,70, Mediaset meno 1,30 come Ansaldo STS e Enel Green Power. Forte invece Diasorin più 3,36, Tods più 1,84, Impregilo più 1,60, ST Microelectronics più 1,60%, Parmalat più 1,41%. Ci sono anche notizie che sono appena arrivate e appena battute, le leggo assieme a voi. Allora passiamo alle notizie in breve, dopo aver ricordato che il numero per i vostri sms è 349-238-6666. Partiamo dalla prima, appena battuta dall'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore Radio Core. Vi sarebbero nel decreto legge per lo sviluppo la possibilità di rinegoziare per i mutui a tasso variabile fino a 150.000 euro a vantaggio dei meno abbienti. Praticamente il disegno di legge disporrebbe che per chi ha in carico mutui ipotecari a tasso e rata variabile fino al 30 aprile del 2012 potrebbe rinegoziare le condizioni, a patto che il titolare del finanziamento attesti un ISEE, che è l'indicatore di situazione economica equivalente, inferiore a 30.000 euro e non presenti ritardi nei pagamenti. Chiaramente questa misura, vedremo se arriverà effettivamente, sarebbe un nuovo tassello nella rete, nelle operazioni costruite dal ministro Tremonti con l'ABI per le persone in difficoltà a pagare il mutuo. Ricordate la moratoria sui mutui, il decreto legge praticamente a costo zero, l'intenzione del governo di portarlo giovedì come elemento prioritario al Consiglio dei ministri, e poi il provvedimento, cioè l'intero disegno di legge sviluppo, dovrebbe contenere un corposo pacchetto di norme per la semplificazione a favore delle imprese, compresi gli studi di settore e lo spesometro, e poi una riedizione del piano casa che dovrebbe superare i vincoli posti dalle regioni. Non è prevista invece una manutenzione dei conti pubblici da circa 3 miliardi, in cui dentro c'è anche il rifinanziamento delle missioni all'estero, dovrebbe essere rinviata questa a un decreto legge a giugno. E ancora staremo a vedere, perché è noto che, lo ha detto il ministro Tremonti più volte, anche ieri il ministro Brunetta, che giovedì, al più tardi venerdì, ma dovrebbe essere giovedì, arriverà un disegno di legge, appunto la frustata all'economia, a ridosso proprio alla vigilia dell'assise di Confindustria, della piccola industria di Confindustria di sabato. Dicevo, di questo torneremo a parlare. Nel frattempo, per quello che riguarda l'Italia, oggi l'INPS ha diffuso i dati sulla cassa integrazione ad aprile, meno 10% rispetto a marzo e meno 20% rispetto al 2010, e questa è una buona notizia. Restano comunque 470.000 i lavoratori coinvolti nella cassa integrazione, che hanno perso nei primi 4 mesi dell'anno circa 2.600 euro complessivamente a testa in busta paga. Il complessivo fa 1.500.000 di euro. Volete sapere come vanno le votazioni a Alex Bertone? Si dovrebbero concludere alle 18. Mi sembra di poter dire che, visto l'appoggio della FIOM, i sì dovrebbero essere scontati. Alle poco prima delle 3 avevano già votato 916 lavoratori su 1.100, quindi praticamente il 90%. Restiamo sull'Italia, perché secondo quanto dichiarato oggi dal presidente della regione Piemonte Roberto Cota, dovrebbero essere sbloccati i lavori sulla famosa, ormai mitica, Torino-Lione, la TAV. I fondi europei sono 617 milioni di euro, e ha detto Cota che la TAV partirà con il tunnel geognostico della Maddalena, è la prima fase esplorativa. Il costo originario, ricordo, era di 6 miliardi e 700 milioni, adesso siamo già passati a 9 miliardi. E tra l'altro i costi devono essere per il 60% a carico dell'Italia e per il 40% a carico della Francia. L'Italia ha già chiesto un ribilanciamento, cioè 50-50, altrimenti noi paghiamo 5 miliardi e la Francia 4. E per i comuni interessati dalla TAV, dalla Torino-Lione, saranno disponibili 20 milioni di euro per l'acquisto di materiale rotabile per il trasporto pubblico locale. Lo ha detto il ministro alle infrastrutture e ai trasporti Altero Matteoli. Nel frattempo è arrivato il sì al disegno di legge antiscalate, ormai insomma, che ha fallito il primo obiettivo, cioè lasciare la Parmalat in mani italiane. E ancora, no, vedo un sms, 1.500.000 in meno, 1.500.000 di euro in meno per i primi 4 mesi come salari non versati ai lavoratori in cassa integrazione. Comunque, torniamo al disegno di legge antiscalate. È passato adesso al Senato. Nel frattempo, per fermare l'offerta pubblica di Lactalis su Parmalat, hanno fatto ricorso al TAR sia Codacons che l'associazione utenti e servizi finanziari, bancari e assicurativi. Il motivo è il ricorso al TAR del Lazio, perché Lactalis non pubblica bilanci da anni, non è quotata, e becca una multa ogni anno dal governo francese, dallo Stato francese, però insomma becca non pubblica un bilancio da anni, e questo è il motivo, secondo il Codacons, valido per il ricorso. Visto che parlavamo di mutui, interessante la notizia di oggi, nel giorno in cui l'Euribor va all'1,4%, il tasso interbancario che serve per calcolare i mutui, ed è il massimo dall'aprile del 2009. Interessante, dicevo, la notizia è che l'11% dei mutui contratti in questo paese per la prima casa arriva da cittadini stranieri, i rumeni in testa. In media l'immigrato che vuole comprare la sua prima casa in Italia richiede circa 132.000 euro in media di mutuo, pari all'80% del valore della casa. Sono case infatti che hanno un valore basso di mercato, come immaginabile, dai 150 ai 200.000 euro. La nostra Deborah Rosciani ha sentito Alberto Genovesi di Mutui.it. L'importo medio richiesto è di 132.000 euro, che è tipicamente l'80% del valore dell'immobile, quindi un numero in linea con quelle che sono le richieste medie del mercato italiano. Sono leggermente più giovani, con età media al momento della richiesta del mutuo di 35 anni. I rumeni sono diventati la prima comunità solo recentemente, al secondo posto invece rimane la comunità di albanesi, che è storicamente delle presenze molto forti in Italia. Chiaramente una forte concentrazione nelle zone del nord e del centro Italia, dove ci sono le maggiori opportunità di lavoro e quindi il maggior afflusso di immigrati. Le pretese tendono a sestarsi su immobili, su case con un valore un po' più basso, parliamo di 165.000 euro contro i 200.000 del valore dell'immobile tipico in Italia. Ancora due notizie, una è molto interessante e arriva dagli Stati Uniti. Sapete chi fa guadagnare di più gli hedge fund, i fondi speculativi per definizione? Le donne, la speculazione femmina, titolano già alcune agenzie, ma insomma anche se solo il 3% degli hedge fund è affidato a donne, negli ultimi 9 anni quelli gestiti dalle donne hanno superato del 55% i risultati di quelli a guida maschile. E poi un'altra notizia che arriva dagli Stati Uniti: il nuovo attacco degli hacker verso la Sony e uno dei suoi servizi online, i dati di altri 25 milioni di clienti sono stati compromessi, costringendo Sony Online Entertainment a sospendere i propri servizi. L'ultimissima notizia riguarda invece l'oro e il petrolio. Era in calo l'oro stamattina, ma poi si è mantenuto comunque a quota 1525-1526 dollari l'oncia. Il petrolio anch'esso in calo di 1,5% percentuale a sostanzialmente 111 dollari al barile a New York. E adesso, come annunciato, parliamo di un tema che riguarda milioni di persone, è il tema dei buoni pasto. Sapete quanti sono i lavoratori che praticamente ogni giorno a pranzo utilizzano i buoni pasto per mangiare? 2 milioni e 200 mila, per un mercato che vale circa 2 miliardi e mezzo. 349-238-6666 per i vostri sms. E un mercato così ricco, 2 milioni e 200 mila persone, 2 miliardi e mezzo di valore, è chiaro che attrae l'appetito delle varie società che battono per ottenere, in sostanza, per vincere la gara con le società che emettono i buoni pasto per i loro dipendenti. Si combattono con gare al ribasso che si chiudono con uno sconto tra il 16 e il 20%. E qualcuno deve pagare, e qui iniziano i problemi. Ecco perché ringrazio, per averci raggiunto in collegamento, Franco Tumino, che è presidente di ANSEB, l'associazione che rappresenta tutte le imprese che emettono i buoni pasto. Buonasera, presidente. Buonasera e grazie a voi per l'interesse manifestato. Ah beh, siamo anche in conflitto di interesse, visto che i buoni pasto li abbiamo anche noi quando lo mangiamo qui alla mensa del Sole 24 Ore. Allora, su questo, tra l'altro, voi fate parte di Confcommercio, se non ricordo male, come associazione di categoria, dico bene? ANSEB aderisce a FIPE, che è una federazione, esatto, aderente a Confcommercio. Sì. Allora, mi faccia capire, perché la situazione è un po' complessa. C'è un'azienda, un'industria, una società che vuole dare ai suoi lavoratori buoni pasto perché non ha le mense interne, di solito è così, oppure perché spesso sono in giro e quindi gli dà l'equivalente di quello che è il costo della mensa. E fa una gara, partecipano varie società e a questo punto le gare, come spesso avviene, si vincono anche a colpi di ribasso e ci sono sconti tra il 15 e il 20%. La cosa che ha fatto arrabbiare è che poi quando io vado con un buon pasto da 5 euro al bar o al ristorante, mangio, quando l'esercente, il proprietario del bar, poi se ho ben capito riscuote il buono, lo trova decurtato di almeno il 10%, è così? Se la società emettitrice per vincere la gara ha dovuto tra virgolette, ma alle volte è effettivamente dovuto, ha dovuto fare un fortissimo ribasso al cliente, è chiaro, diciamo, che questo ribasso lo deve recuperare in qualche modo, potrà limare le sue spese generali e i suoi margini di profitto, ma se ha offerto tra il 15 e il 20 è difficile che possa riuscire soltanto con questa riduzione a colmare la differenza. Quindi se non vuole andare in perdita e fallire deve scaricare a valle della filiera questo sconto. Quindi su chi lo scaricherà? Lo scaricherà sull'esercente, sia adesso bar, service o altro, che eroga materialmente il servizio, diciamo, a fronte del buono pasto, il servizio di ristorazione a fronte del buono pasto, il quale poi è probabile, anche se il problema è meno, il fenomeno è meno appariscente, che a sua volta dovrà recuperare, insomma, che è difficile che abbia, diciamo, anche lui una voglia di vedere abbattuti completamente i propri margini, dovrà scaricare, diciamo, questo sconto che pratica, questa commissione per essere più propri, che gli viene praticato dalla società emettitrice, o sul prezzo o sulla quantità e qualità erogato, su tutte e due. E per questo, diciamo, che dall'origine si produce un danno su tutta la filiera che arriva fino al consumatore finale. C'è chi giustamente anche chiede come funzionino i buoni pasto. Semplicemente uno trova in busta paga per lavoratori dipendenti di solito un insieme di buoni pasto che hanno un valore dai 5, 6 e 7 euro, dipende da quello che è la quota che decide di dare l'azienda, 10 euro nel caso dell'ENI, adesso vi arriviamo. E con questi buoni pasto può andare in tutti gli esercizi commerciali, bar, ristoranti, pizzerie che espongono fuori lo stesso buono pasto, e delle volte può anche andare a farci la spesa, diciamola tutta, perché vengono accettati anche dai supermercati. Comunque, perché tutto nasce nel momento, o perlomeno si in qualche modo acuisce nel momento in cui l'ENI deve aggiudicare la nuova gara? L'ENI ha 4.000 dipendenti, per un ammontare di 8 milioni di euro, se ben capito, di buoni pasto, sì, da 10 euro. Valore stimato, una gara da 8 milioni di euro, vuole concedere un buono pasto di 10 euro, però vuole una gara al massimo ribasso. Tra l'altro anche uno dei leader del settore, il gruppo italo-francese Edenred, con il marchio Ticket Restaurant, uno dei più noti in assoluto, ha detto che oltre che servire una legge per il settore, il Ticket Restaurant vale il 43% del settore, ha detto di no all'asta dell'ENI in difesa della qualità. Perché tutto nasce con quest'asta? Perché è in corso da metà febbraio di quest'anno, quando si è svolta un'audizione presso l'autorità di vigilanza sugli appalti e sulle concessioni pubbliche, è in corso un'istruttoria per capire come porre freno, diciamo, a questa catena di ribassi in gare che sono state fatte con il metodo cosiddetto dell'offerta economica più vantaggiosa, che al di là del termine invece è una metodologia di gara in cui si dà molto peso, un prevalente peso, alla parte del progetto tecnico e di qualità del servizio sulla parte puramente di ribasso. Mentre quindi l'autorità sta impegnandosi nel tentativo di mettere un argine, diciamo, a questo degrado della competizione, siamo in attesa, diciamo, che si pronunci e tiri fuori delle linee guida, eccetera, ENI, non voglio esagerare la polemica, disinvoltamente se ne esce con una gara al massimo ribasso, cioè in direzione esattamente opposta, dando importanza solo alla componente prezzo, perché la gara al massimo ribasso vale solo il prezzo che si offre, insomma. Quindi, sì, mi scusi, io non ho capito una cosa però, perché voi dite, lo dice anche appunto il leader di settore, che è in discussione, a rischio la qualità? Ma è a rischio la qualità perché se, diciamo, gli sconti che si danno a monte, cioè al cliente, poi devono essere ribattuti a valle, è chiaro che il prodotto finale che viene dato al consumatore, come dicevo prima, ma il prodotto finale che vuol dire? Sul piano quantitativo, cioè vuol dire che se anche il consumatore non se ne accorge, perché è difficile. Il panino fa più schifo, no? Mi faccia capire. Vuol dire, è probabile o possibile, oppure che le quantità siano ridotte, insomma. Cioè, voglio, mi faccia capire bene, cioè, se io ho un monopasto da 7 euro, da 8 euro, vado al bar, il barista o il gestore della pizzeria del ristorante sa che quegli 8 euro in realtà a lui verranno ridati solo 7 euro, e quindi sì, a me piazza un prodotto che vale di meno? Rispetto all'equivalente di... non è che abbiamo prove, cioè, dovremmo fare delle rilevazioni, no, anche perché voglio dire, uno entra in un bar, ci sono i panini, costano 7 euro, io vorrei capire questa polemica, perché oggi era in prima pagina anche sul Corriere della Sera, per cui... sì. Allora dico, cioè, voi dite attenzione a rischio della qualità, perché date già per scontato che poi l'esercente, sapendo che il buono vale 8 euro ma lui ne incasserà 7, se va bene, darà un servizio peggiore. E come fa? Cioè, cosa fa? Creiamo le zone apartheid, buoni pasto, sì, buoni pasto, per una parte degli esercizi convenzionati, cioè che accettano i buoni pasto, l'introito dei ricavi da buoni pasto può rappresentare il 40-50%, sì, insomma, no? Quindi nelle zone dove ci sono gli uffici, lì, certo, non può essere indifferente, diciamo, al colpo economico che subisce, quindi è probabile che qualcosa faccia, insomma, quindi noi non abbiamo le prove, ma abbiamo un forte sospetto. Cioè, voi dite, insomma, nei bar, nei ristoranti dove questi sono, che vivono di questo, perché sappiamo che in molti centri dove ci sono gli uffici d'Italia, ci sono interi esercizi commerciali che lavorano solo la mattina a pranzo, esatto, e un po' pomeriggio, esatto, poi chiudono, poi come chiudono, molti, esatto, perché vivono sui dipendenti che li lavorano, dice lì si abbasserà per forza la qualità. Sì. Domanda. Poi noi intendiamo parlare anche di qualità complessiva della competizione, voglio dire, questo è tutto un degrado, cioè se io, tra l'altro, se posso permettermi, non si capisce questa tendenza di molte committenze. Perché come nasce il buono pasto? Non è che è un atto di beneficenza, c'è una trattativa tra organizzazioni di rappresentanza delle imprese e organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori nell'ambito delle trattative per il contratto di lavoro di ciascuna categoria, che prevede per chi deve fermarsi a pranzo che ci sia il servizio di mensa. Nel tempo è venuto avanti, giustamente, perché è un elemento di modernità, non solo quindi per i casi di trasferte, ma anche per quelli che rimangono in sede, che il lavoratore titolare di questo diritto possa anche scegliere dove mangiare, spesso sono lamentele sulla qualità della mensa, e quindi è entrato questo che tecnicamente il buono si chiama servizio sostitutivo di mensa, anziché darti la mensa ti do un buono e tu vai a mangiare dove più ti aggrada, insomma, nell'ambito della tua pausa di pranzo. Però, insomma, mi scusi, se io come nel caso che poi ci arriveremo ho previsto, ho trattato e mi sono messo d'accordo di dare un buono di 10 euro, non si capisce perché devo fare una gara al massimo ribasso, o comunque una gara in cui do importanza allo sconto che mi viene fatto a me cliente, per cui committente, per cui io alla fine, anziché dare 10 euro, ne do un altro. Poi dico al lavoratore, ma no, tu hai comunque in mano un buono di 10 euro, però questo è fittizio, cioè è probabile che ci sia un'erosione, sì, di quel valore. Due domande che arrivano e poi chiudiamo dagli ascoltatori al 349-238-6666. Prima domanda, ma non sarebbe più giusto a questo punto mettere il valore del buono pasto in busta paga, detassato chiaramente, cioè invece che dire tu non hai la mensa, oppure sei sempre in giro non puoi usare la mensa, guarda, ti diamo in busta paga 8 euro, sì, detassati, no, e a questo punto io faccio quello che voglio. No. C'è chi lo dice, naturalmente il mio è un punto di vista di parte, non lo nascondo mica, insomma, io rappresento le società emittitrici che da una scelta del genere sarebbero danneggiate. Dico che questo sarebbe un allontanamento dalla modernità, perché questo non ci garantisce niente che poi il lavoratore si nutra bene, date anche le difficoltà di una parte consistente dei lavoratori in questa difficile congiuntura economica del paese, insomma. Quindi è anche possibile che poi il lavoratore, anziché spendersi liberi in mangiare, riduca al minimo i suoi consumi alimentari e anche la qualità della pausa pranzo, che è anche un elemento di relax e di distacco dal lavoro. Ho capito, chiedere a lei, diciamo, di chiudere il settore. Però l'altro elemento, alcuni ascoltatori segnalano che in effetti nei supermercati poi il valore viene spesso abbassato, per cui a noi non risulta, io stesso li ho usati tantissime volte, però e poi c'è una battuta di un ascoltatore che mi piace molto, però allora alcuni sostengono che in effetti alcuni esercizi levino almeno il 5% del valore del buono per non perderci, oppure non li accettino nei fine settimana perché perdono troppi soldi. Altri suoi associati come Confcommercio segnalano che vengono pagati con 2 mesi minimo, con un 10% in meno rispetto al valore, vengono pagati al commerciante, diciamo, con un 10% in meno rispetto al valore, e poi ci vogliono anche 30 euro all'anno di spese che voi come società emettitrici chiedete. Però sono spesso obbligati a accettarli, perché se è il core business, sono i lavoratori che vanno a mangiare fuori a pranzo, non possono accettarli. Ultima battuta, e su questo vorrei chiudere con lei, Tumino. C'è chi dice: io entro nel bar, scelgo il panino, me lo mangio, vado a pagare, lì estraggo il buono pasto. Scusi, a quel punto chi mi può fregare, no? No, ma il problema, questo è a monte, senso. No? Cioè, ordino, mangio, e poi quando arrivo lì dico: atto, ho il buono pasto. Dai. Ma perché se stiamo delineando il panino di serie A e il panino di serie B come buono pasto, no, uno ma si ma fa furbo. I prezzi non sono differenziati tra consumatori che hanno il buono pasto e non hanno. Semplicemente quello che volevo dire, quando un esercizio sa di avere un introito da buono pasto che complessivamente pesa in modo rilevante sul totale dei suoi incassi, aumenterà tutto, diciamo, i prezzi, diminuirà, spalmerà su tutti, perché non può mica differenziare i prezzi, diciamo, tra e cambiare i cartellini, sì, insomma. Quindi in realtà ne vengono danneggiati tutti i consumatori. Cioè, è evidente che se io sì, però mi faccio difendere anche committente, questo sì, non può non avere un effetto sui prezzi finali. Sulla mi qualità. Faccio difendere anche l'ENI, però dal punto di vista dell'ENI dice: io faccio una gara al massimo ribasso, chi mi riesce a offrire 10 euro di buono pasto e la vince. Cioè, nel mondo dell'edilizia, fatte salve le garanzie di sicurezza e qualità, funziona spesso così. Per cui, guardi, speriamo che arriviate a un accordo. E tanto... Speriamo che arriviamo a un accordo, però diciamo non a caso la legge, parlo del codice dei contratti pubblici e degli appalti, dice che bisogna fare le gare per i buoni pasto, vista la delicatezza, diciamo, di come si può scaricare lo sconto praticato a monte su tutta la filiera, preferibilmente con il metodo dell'offerta economica più vantaggiosa. Quindi secondo me non è vero che è così legittimo, bisognerebbe motivare adeguatamente. Vabbè. Specie quando, lo dico senza esagerare la polemica, si tratta di società che non è che stanno con la canna alla canna però, del gatto, sì, lo so, però quello non vuol dire, perché uno ha l'obiettivo di massimizzare gli utili, di portarli ancora più alti. Comunque, grazie, e speriamo appunto che si arrivi un accordo al presidente dell'associazione che rappresenta le imprese che mettono i buoni pasto, che si chiama ANSEB, e lui è Franco Tumino. Grazie a voi. Oh. Dagli effetti della morte di Osama Bin Laden e i buoni pasto, oggi si va di tutto. Adesso torniamo invece ai mercati finanziari, poi passiamo alla Confindustria, alla piccola industria di Confindustria, alla Confagricoltura, e nel finale alla FIOM. È un programma per tutti, devo dire che insomma gli utenti di buoni pasto sono avvisati, fate come dice l'ascoltatore, uno magna e poi quando si presenta la cassa tira fuori il buono pasto di sorpresa. Meteo e pubblicità, 349-238-6666 per gli sms. minuti di nuovo in diretta per parlare su di borsa. Leggo solo per chiudere definitivamente sui buoni pasto quello che scrive un ascoltatore: buono pasto sì, buono pasto no, riuscissi a trovare un lavoro pagherei pure il pranzo ai colleghi, e come dagli torto. C'è poi chi scrive che io sono un po' duro a capire, sì, ha ragione, proprio è una caratteristica di questo programma, quando non capisco chiedo 30 volte. Comunque adesso la borsa. -0,37% Milano, -0,36% Francoforte e Londra invariata, Parigi -0,30%, questo è l'andamento in tutta Europa. L'America invece è positiva di uno 0,20% sul Dow Jones. Segnalo che questa mattina aveva chiuso abbastanza, no, sto guardando adesso l'andamento dello Standard & Poor's che in realtà è però è negativo, l'S&P 500 è -0,1%. Dicevo, questa mattina in ribasso sia l'oro che il petrolio. Il petrolio adesso sta perdendo più o meno 1,5%. Euro su dollaro 1,48,85. I titoli migliori di Assorin più 3,60%, Tod's più 2, Impregilo più 1,60%, ST Microelectronics più 1,5%, Parmalat più 1,3%. Ancora i peggiori invece, Tenaris meno 3%, Fiat meno 2%, Pirelli meno 1,60%, Buzzi Unice meno 1,5%, Enel Green Power meno 1,4%, Fondiaria meno 1,2% ed Eni meno 1%. In questo, questa è la chiusura principale dei titoli. Ancora mi sembra di poter dire che insomma Diasorin a questo punto, che è una debuttante, neodebuttante, continua a crescere in vista dei conti del prossimo 13 maggio, ma chiedo conferma a Livia Zancanera, Radio Corriere sulle 24 ore. Livia, buonasera. Sì, buonasera. Allora, sì, è corretto, Diasorin infatti continua a crescere in vista dei conti. In quattro sedute ha guadagnato oltre il 5,5% e continua appunto a beneficiare sulle attese dopo le dichiarazioni dell'amministratore delegato Carlo Rosa, che durante l'assemblea la settimana scorsa ha praticamente anticipato che l'andamento dei primi tre mesi dell'anno è incoraggiante e ha indicato che per il 2011 gli analisti prevedono ancora una crescita a doppia cifra. Il giorno dopo le immatricolazioni più che deludenti, Fiat e Pirelli. Sì, allora Fiat e Pirelli appunto hanno chiuso in calo, hanno registrato tra le migliori, tra le peggiori performance del paniere principale, e bisogna dire che entrambi i titoli hanno risentito dell'andamento negativo del settore auto, che ha ceduto circa 1,5% ed è stato colpito dai realizzi dopo il buon andamento delle scorse sedute. Per quanto riguarda nel dettaglio Fiat, ieri il titolo aveva beneficiato dei conti positivi di Chrysler, che appunto fa parte del gruppo Fiat, e a mercati chiusi sono poi state pubblicate le immatricolazioni in Italia, quindi il lingotto ha fatto ancora peggio del mercato con un calo dell'8,4% rispetto a una flessione del mercato del 2,24% e una quota del lingotto scesa al 28,7%. Ancora Livia Zancanel su Tenaris, in generale il comparto energetico. Molti ci chiedono perché è così debole, con un petrolio comunque a $111, Eni ha perso l'1%, Enel Green Power l'1,40%, A2A lo 0,60% di calo, Saipem lo 0,70% di calo, un po' meglio forse Enel, che perde solo lo 0,30%. Sì, allora bisogna fare una premessa, nel senso che i mercati arrivano da sette sedute di Tenaris chiaramente meno 3%. Sì, allora i mercati arrivano da sette sedute consecutive di rialzi, più una giornata piuttosto debole di ieri, ma dopo l'annuncio della morte di Osama Bin Laden era il minimo che potesse succedere. Quindi cosa capita oggi? Praticamente gli investitori hanno approfittato dei rialzi per prendere profitto sui settori che sono cresciuti di più, e in questi rientra anche quindi il comparto energetico e delle materie prime. Bisogna sottolineare inoltre che ora il petrolio viaggia in calo dello 0,8%, più o meno a $112,6 al barile. Per quanto riguarda nel dettaglio Tenaris, quindi, che ha realizzato la peggiore performance sul FTSE MIB, il titolo aveva guadagnato il 2% in tre sedute, è arrivato anche qualche giudizio negativo da parte di qualche banca d'affari, e comunque il titolo ha risentito del calo generalizzato del comparto. Adesso c'è il traffico, tu usi buoni pasto, Olivia? Sì. Per cui attenta, ti sei persa la prima parte del programma, qui paga sempre, tiralo fuori sempre quando sei alla cassa, non prima, poi casomai ti spieghiamo anche perché traffico, e poi andiamo sui bancari. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, i bancari, nel frattempo c'è chi mi ha scritto: paga tu il pranzo, Livia, touché, avete ragione. E lo faremo perché mi sopporta da anni nei collegamenti con Radio Corriere, non è l'unica, anche gli altri colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. I bancari, Fondiaria meno 1,21%, ancora poco mossi devo dire oggi, Mediolanum meno 0,60% e poi Azimut meno 0,35%, Generali praticamente invariata, così come la Popolare di Milano, Intesa San Paolo più 0,30%, Mediobanca più 0,32%, Ubibanca più 0,66% come il Banco Popolare. Oggi si sono un po' risvegliati, Livia. Sì, allora bisogna dire che ieri avevano registrato una performance debole tra prima dell'estate, quindi giugno-luglio sono attesi i famosi 10 miliardi di euro di aumenti di capitale, quindi di azioni di nuova emissione, ma oggi appunto alcuni sono dissenti con una performance positiva. Non ci sono novità per quanto riguarda i vari titoli in particolare, se non per quanto riguarda Fonsai, appunto dopo le indiscrezioni secondo cui la Consob ha acceso un fare, in particolare per quanto riguarda gli avviamenti sulle che avete anticipato voi come agenzia di stampa Radio Corriere sulle 24 ore, quindi va riconosciuto. non ti ripagherò in buon impasto il pranzo, cioè, che ci mancherebbe, sarebbe veramente squallido da parte mia. Addirittura c'è chi scrive: ormai io ho un bar, riesco a riconoscere quelli che entrano e hanno i buoni pasti in tasca, e no, ma mi sembra un po' difficile. Grazie alla collega di Radio Cuore su 24 ore, Livia Zancanera. Adesso dai temi dei lavoratori dipendenti e dello scontro tra i gruppi e le società che forniscono e gestiscono i buoni pasto, passiamo al nostro avvicinamento a Bergamo. Allora, avvicinamento a Bergamo, dicevo, dove il 6 di questo mese vi saranno le assise molto attese per della Confindustria. Ieri ce la raccontate nella loro organizzazione e anche negli obiettivi, negli 8 temi, il presidente della piccola industria di Confindustria, Vincenzo Boccia. Oggi continuiamo con l'avvicinamento appunto al 7 maggio, almeno 4.000 industriali già iscritti. L'Italia che vogliamo, questo è il titolo, e ripeto, i temi chiave sono relazioni industriali, fisco, credito e finanze, infrastrutture, ambiente ed energia, mezzogiorno e fondi strutturali, pubblica amministrazione e semplificazioni e costi della politica, tecnologia e ricerca, giovani e merito. La mattina, poi il pomeriggio invece l'assemblea plenaria. Siamo in collegamento col presidente della piccola industria di Confindustria Roma, Stefano Zapponini. Buonasera, presidente. Buonasera, dottor Barisoni. Allora, abbiamo deciso con ognuno di voi di fare anche alcuni temi specifici. Ieri appunto Vincenzo Boccia, il vostro presidente, ci ha illustrato i temi generali. Con lei vorrei capire, poi parleremo nei prossimi giorni di cosa può fare il governo e il paese sul fronte burocrazia, adempimenti fiscali. Ricordavamo ieri i 130 i 257 giorni in Italia per costruire un capannone in media, e le 258 ore che servono per gli adempimenti fiscali in media un'impresa. Però cosa può fare Confindustria al suo interno? C'è chi dice, insomma, la burocrazia non è solo dello Stato, potrebbe essere snellita anche Confindustria al suo interno. Voi come Roma avete fatto un'operazione in tal senso? Sì, guardi, sicuramente tra gli elementi che hanno determinato quel disagio che faticava poi ad emergere, quando poi più i coraggiosi lo hanno iniziato a palesare, ci siamo accorti di quanto fosse effettivamente diffuso e profondo. C'era anche la questione dei modelli organizzativi del nostro sistema. Per quanto ci riguarda, abbiamo pensato di trovare nella riduzione della catena decisionale degli organi e degli organismi coinvolti una sintesi che avvicinasse le imprese alle istituzioni. Allora abbiamo fatto una sintesi associativa. Delle 5 province laziali, 4 hanno aderito al progetto Un'Industria, e così facendo abbiamo messo in condizione le imprenditori e le imprese che aderiscono a questo sistema di interloquire con le istituzioni al primo livello territoriale, comunale e provinciale, nella piena autonomia come nel passato, ma abbiamo sviluppato un momento di sintesi collettiva per i progetti di rilevanza regionale. Noi sappiamo quanto le regioni oggi contino, soprattutto come interfaccia con l'Unione Europea, quindi progetti di sviluppo di politica industriale di ampio respiro, che effettivamente incidono sulla competitività del territorio, passano attraverso il livello regionale. Noi abbiamo visto che il modello precedente non facilitava questa relazione, quindi abbiamo trovato questa soluzione. E quindi uno snellimento anche, diciamo, all'interno della struttura di rappresentanza degli industriali. Mentre ieri, come vi raccontavano questa mattina i nostri GR, il ministro Brunetta ha detto entro 7 giorni faremo un decreto di stimolo all'economia e taglieremo oneri burocratici e amministrativi per circa 10-12 miliardi di euro alle imprese, e sono circa 21 miliardi il costo complessivo degli oneri burocratici alle imprese italiane. Ma dicevo, ancora vedo molti messaggi su quello che sarà nel decreto legge. Ripeto, c'è un'anticipazione del disegno di legge sviluppo, non decreto, mi raccomando, disegno di legge sviluppo, che dovrebbe arrivare al Consiglio dei Ministri giovedì, in cui vi sarebbe anche la clausola per rinegoziare i mutui per chi ha meno di 30.000 euro e anche un pacchetto di norme per la semplificazione a favore delle imprese. Dopo il GR, però, Presidente, vorrei con lei toccare un altro tema che riguarda anche il ruolo in cui viene percepita l'impresa, la cultura dell'impresa e soprattutto della piccola impresa. Cioè, a mio avviso, anche lavorare sul rapporto tra voi e i giovani, voi e la società, non sarebbe male, perché sennò non si capisce che insomma, la vera fonte di occupazione in questo paese è il mondo dell'impresa. Se mi dà una risposta su quello che state facendo, vorreste fare, dopo il GR le sono grato. 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Siamo in collegamento, vi ricordo, con il presidente della piccola industria di Confindustria Roma, Stefano Zapponini. Presidente, le avevo fatto una domanda prima del GR, vorrei però leggere assieme a lei alcune agenzie che riguardano il disegno di legge sviluppo, quello che dovrebbe rispondere, oltre che ai mutui per chi ha meno di 30.000 euro, anche a parte delle vostre richieste. Allora, ci dovrebbe essere un credito d'imposta per chi assume al sud. Le imprese che assumeranno lavoratori svantaggiati nel mezzogiorno potranno contare su un credito d'imposta, e questa sarebbe una novità non da poco. E poi, per quello che riguarda gli appalti di lavori pubblici senza bando di gara, salirebbe da 500.000 a 1 milione di euro la soglia per fare gli appalti senza il bando di gara. Di nuovo, credito d'imposta anche per chi fa ricerca in università e per le aziende che investono in ricerca nelle università, mi correggo, e poi i distretti turistico-alberghieri che godranno di burocrazia zero. Queste sono alcune delle cose che stanno trapelando da agenzia per quello che riguarda il disegno di legge sviluppo. Le avevo chiesto come si fa invece ad avvicinare anche la società, i giovani, ma non solo, a quelli che sono i temi della piccola industria, che ripeto è il 98% di Confindustria ed è la principale fonte di occupazione in questo paese. Guarda, dottor Barisoni, intanto se giovedì il governo varerà gli interventi, noi sicuramente lo accoglieremo con estremo interesse e attenzione, valuteremo i contenuti sia sul che cosa, ma anche il come e soprattutto il quando, perché quello che è il messaggio forte che deve passare è che qualunque possa essere il contributo in questo momento, quello che conta, tanto quello che serve lo sappiamo, è le modalità con le quali si arriva a un risultato e i tempi. Per arrivare alla sua domanda, allora, intanto noi abbiamo voluto, soprattutto come piccola impresa, inaugurare una nuova stagione di consapevolezza diffusa nei giovani, soprattutto nell'ambito della cultura d'impresa, con un'iniziativa straordinaria, nel senso che siamo stati la prima nazione in Europa con la giornata nazionale della piccola industria, che è proprio una porte aperte delle piccole imprese ai giovani, giovani in età peraltro scolare. Quindi abbiamo iniziato concretamente un processo di consapevolezza mettendo in condizioni, l'anno scorso è stata la prima edizione, 15.000 studenti, di entrare e conoscere e capire com'è organizzata, com'è strutturata, qual è l'assetto di una piccola industria, quali sono i ruoli e le sensibilità individuali, come funziona questa comunità che crea valore e crea occupazione. Infatti sappiamo che ha giocato un ruolo significativo di stabilizzatore sia economico che occupazionale anche in questa crisi e non soltanto in Italia. Sul piano pratico e pragmatico, l'edizione del prossimo anno dovrà vedere anche la chiusura del cerchio con l'inaugurazione di un istituto tecnico. Lei immagini se le 104 territoriali adottassero ciascuno un istituto tecnico. Si creerebbe immediatamente una relazione forte tra le imprese, il mondo delle imprese e l'istituto, e allora quello è l'inizio della riduzione di quel mismatch tra domande e offerta di lavoro del quale parliamo da anni e per il quale non siamo ancora ce la farete con gli istituti tecnici, che è un tema che ci sta molto a cuore, perché sono stati in parte smantellati ed erano delle grandissime scuole di preparazione, di formazione molto pratica e concreta per le imprese. Dall'altro sarebbe bello che vi fosse un legame ancora più stretto tra ogni istituto tecnico e un'impresa del territorio, in modo da Infatti parliamo proprio esattamente di questo. D'altra parte anche la riforma Gelmini va in questa direzione e l'idea di adottare un istituto tecnico è un legame talmente forte che si crea duro nel tempo, significa che il territorio chiederà a quell'istituto le competenze che servono perché sono quelle che poi verranno canalizzate sulle imprese presenti su quel territorio. Quindi lo spirito è esattamente quello di creare una sinergia operativa e duratura nel tempo. Presidente, io la ringrazio per averci ricordato cosa possono fare gli industriali al loro interno, sia snellendo, diciamo, la parte organizzativa loro di Confindustria, sia lavorando fuori con soggetti quali il mondo dell'istruzione e della ricerca. Mi piace moltissimo, ne abbiamo già parlato, l'idea che appunto vi possa essere un istituto tecnico adottato in maniera proprio operativa e poi anche produttiva da un'impresa del territorio. Domani torneremo a parlare invece di quello che può fare il governo e altre istituzioni, in primo luogo il governo, per abbassare gli oneri. Non vuol dire abbassare tasse magari, ma vuol dire abbassare i costi per pagare le tasse, una cosa un po' diversa, i costi per adempiere a tutte le richieste. Anche l'efficientamento, dottor Barisoni. Mi scusi? Anche l'efficientamento delle spese, certo. Quindi un rapporto obiettivo equilibrato tra la fiscalità e i servizi, soprattutto quelli di carattere comune, quelli che incidono sulla competitività, che sono quelli. Ma insomma, il presidente di Federchimica Squinti ci raccontò che ci mise 4 mesi a aprire una fabbrica in Spagna e quasi 4 anni per una fabbrica equivalente, un impianto equivalente in Italia. Insomma, questo lo dice. Non c'è più molto da aggiungere quando tu hai dei tempi così lunghi. Vi anticipo però che domani mattina nel programma di Oscar Giannino però sarà ospite la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, i temi dell'assise al centro dell'intervento e anche chiaramente le proposte che stanno arrivando, immagino che le commenterà, quelle anticipazioni che stanno uscendo sul disegno di legge sviluppo. Grazie di nuovo al presidente della piccola industria di Confindustria di Roma, Stefano Zapponini. Grazie agli ascoltatori di Radio 24, buonasera. E noi restiamo sui temi del mondo industriale, ma nel caso specifico della fabbrica che si chiama Ex Bertone, ferma da 6 anni, la carrozzeria di Bertone, fondata a Torino nel 1912 con 1100 dipendenti. Storicamente quella fabbrica ha collaborato con le principali case automobilistiche, ricorderete i modelli di Bertone sulla Lamborghini, sulla Lancia, sulla Citroen. Lunga crisi, dichiarazione di insolvenza, commissariamento il 6 agosto 2009 e il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la cessione dello stabilimento Bertone di Grugliasco al gruppo Fiat. Fiat ha proposto un piano di 500 milioni di euro di investimento nell'ambito del piano Fabbrica Italia, che vale 20 miliardi di euro per produrre 50.000 Maserati all'anno in una fabbrica che ferma da 6 anni. In cambio chiede l'applicazione dal 1 gennaio dell'anno prossimo dello stesso contratto adottato a Pomigliano e a Mirafiori con, ricorderete la Newco, il contratto di maggiore flessibilità e riorganizzazione dei turni, quello a cui la FIOM disse un no fortissimo, ci fu anche un referendum. A Mirafiori infatti nonostante il referendum prevalsero i sì, il 54%, tra gli operai i favorevoli all'accordo furono però solo 9 in più, diciamo, come scarto, si vinse grazie anche agli impiegati. A Pomigliano il 22 giugno dell'anno scorso hanno vinto i sì con il 63%, sia a Pomigliano che a Mirafiori la FIOM era contraria. La novità è che invece la FIOM è a favore dell'intesa con la Fiat per quello che riguarda la fabbrica appunto della Ex Bertone. Giorgio Pogliotti del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Ti chiedo un minuto di pazienza, c'è il traffico e poi sentiamo anche una breve intervista a il delegato della RSU della FIOM alla Ex Bertone, si chiama Pino Viola, e poi ci racconti perché questo accordo sta sparigliando un po' tutte le carte dentro la FIOM e complessivamente anche dentro la CGL. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta. Allora, il sì della Fiom nella ex Bertone, mentre c'era il no della Fiom nella fabbrica di Mirafiori e nella fabbrica di Pomigliano d'Arco. Ha chiesto il perché il nostro Paolo Piacenza al delegato della Fiom Pino Viola nella fabbrica, appunto, della cosiddetta ex Bertone. Si siamo arrivati a questa decisione perché noi abbiamo detto, ieri ho spiegato in assemblea, che questa nostra indicazione di voto, che non vuol dire che noi condividiamo, siamo d'accordo su quello che è scritto nell'accordo, è solo una questione di responsabilità nei confronti dei lavoratori e lavoratrici della Bertone, perché non si meritano che gli venga scaricato sulla testa una responsabilità che è più grande di loro. Se l'azienda fare o non fare investimenti, questo è l'azienda che deve decidere se vuol fare gli investimenti. Cioè, perché voi temete che in realtà Marchionne si aspettasse un no e quindi potesse sentirsi liberato dalla possibilità di fare degli investimenti? Se lui dice che se non si vince, se vince il no non si fanno investimenti, quello poteva succedere. E allora per questo motivo noi abbiamo deciso, dato indicazione di votare sì, e ripeto, perché noi non permettiamo a nessuno, sottolineo, di dividere i lavoratori e la lavoratrice della carrozzeria Bertone, perché tutti assieme abbiamo difeso questa fabbrica e tutti assieme noi vogliamo entrare in questa fabbrica e riprendere a lavorare. Ma in questo c'è anche una polemica nei confronti della Fiom? No, non c'è nessuna polemica nei confronti della Fiom, perché noi condividiamo appieno la linea della Fiom. Noi non abbiamo detto che non condividiamo, siamo d'accordo con la linea della Fiom. Noi condividiamo in pieno la linea della Fiom, e la Fiom, come lei ben si ricorda, né a Pomigliano né a Mirafiori ha dato indicazione di voto. Voi quindi a questo punto firmerete l'accordo, e però leggevo anche che siete pronti a dimettervi per chiedere un rinnovo delle RSU. Sì, perché noi veniamo meno al mandato che ci è stato dato un anno e mezzo fa, perché noi ci siamo presi un impegno per fare accordi che venissero rispettati, che ci sia lavoro, diritti e dignità. E con questo accordo diritti e dignità non ci sono. Quindi si tratta poi successivamente di trovare una nuova rappresentanza, o anche la stessa rappresentanza, insomma di ritrovare una rappresentanza all'interno della fabbrica che abbia questo come obiettivo in una situazione diversa. No, che si tratta di trovare, di andare alla verifica del mandato. E se i lavoratori ritengono opportuno ridarci di nuovo la fiducia, noi non è che ci tiriamo indietro. Che cosa si aspetta dal voto di oggi? Ma penso che prevarrà il sì. Questa scelta ha messo in difficoltà le altre organizzazioni, questa vostra scelta? Ma dalla reazione che c'è stata ieri, diciamo, le ha sorprese, poi adesso se le ha messe in difficoltà o no, non lo so. Le ha sorprese questa nostra decisione, nessuno se l'aspettava, tutti erano attrezzati che noi avessimo dato indicazione di votare no. Io ho visto le facce mentre, e mi è stato anche raccontato, mentre ho detto questa roba nell'introduzione. Diciamo che sono rimasti sorpresi e l'abbiamo spiazzati. È rimasta sorpresa anche l'azienda, secondo lei? Questo non lo so, penso di sì, poi adesso non so se è rimasta spiazzata, ma sorpresa sì. Allora, Giorgio Pogliotti, c'è qualcosa che non capisco, fermo restando che mi sembra molto sensato il ragionamento del rappresentante della Fiom nella ex Bertone. Vogliamo tenere la fabbrica, Marchionne non avrebbe fatto i 500 milioni di investimenti, non vogliamo dividere i lavoratori della ex Bertone. È un ragionamento che però a mio avviso molto diverso quello fatto dalla Fiom a Pomigliano e a Mirafiori. Ricordo che il nuovo contratto, quello a cui la Fiom ha detto di sì nella ex Bertone, prevede la produzione su 18 turni settimanali su 6 giorni a settimana, gli straordinari più flessibili, riduzione delle pause, spostamento pausa pranzo a fine turno, limitazione a scioperi e assenza per malattia. hanno votato fino adesso 1010 lavoratori su 1097, ma insomma non c'è, come dicono alcuni ascoltatori, un po' di incoerenza dentro la FIOM su questo, per quanto la si cerchi in qualche modo di così far passare come normale dialettica? Ma dentro la FIOM si è aperto infatti un dibattito, c'è chi appunto parla di incoerenza dentro la FIOM, mi riferisco alla componente che fa riferimento al lavoro società, perché fa presente questa componente che sostanzialmente la FIOM ha avuto tre posizioni diverse su il medesimo documento Fiat nelle vertenze di Pomigliano, Mirafiori e della ex Bertone. Ovvero sia, per Pomigliano la FIOM disse noi non riconosciamo il referendum e quindi non diede alcuna indicazione di voto. Per Mirafiori la FIOM nazionale disse noi non riconosciamo il referendum, non diamo indicazione di voto, ma le RSU, i loro delegati, insomma nelle RSU con testa la FIOM, costituirono i comitati per il no e diedero quindi indicazioni di voto per il no. Mentre alla ex Bertone noi abbiamo sempre la FIOM nazionale che continua a dire noi non ci pronunciamo, non riconosciamo il referendum, eccetera, perché riguarda materie, diritti inderogabili, eccetera. Ma come ricordavi te, appunto, gli iscritti alla FIOM che compongono le RSU e alla Bertone sono 10 su 16 i membri delle RSU che hanno appunto la tessera FIOM, voteranno per il sì, hanno detto, hanno votato, hanno dato indicazione per votare per il sì. Quindi diciamo anche all'interno della FIOM si è aperta la questione di come su un medesimo documento, perché il testo su cui si sta votando alla ex Bertone è lo stesso testo, poi insomma è lo stesso contratto insomma che si applica a Pomigliano e che poi appunto è il modello di riferimento anche per la NUCO di Mirafiori. Ebbene appunto a livello locale, nelle articolazioni locali, effettivamente da parte quindi dei rappresentanti aziendali della FIOM ci sono posizioni differenti. Ultima domanda, Giorgio, oltre alla FIOM c'è chi sostiene che questa mossa, la dietrologia di chi dice Marchionne forse sperava nel no, ma in realtà noi restiamo sui fatti, però che questa mossa supera un po' sulla destra anche Susanna Camusso e quindi la numero uno della CGIL, perché lei ha dovuto tenere botta, da ragione alla FIOM, sappiamo che la Camusso storicamente ha sempre avuto posizioni un po' più morbide, per essere anche eufemistici, rispetto alla FIOM, ha coperto però la FIOM, adesso si ritrova con una parte, con un pezzo della Federazione dei Metalmeccanici della CGIL che è a favore all'accordo, rischia di essere spiazzata anche lei? Io ricordo che per Pomigliano la CGIL fece campagna per il sì, la CGIL Campania e la CGIL di Napoli. È vero. Sì. Poi su Mirafiori fu un po' più stemperata come posizione, però insomma era comunque. E sulla ex Bertone effettivamente non si è fatta sentire, anche se bisogna tener conto che la minoranza interna, la FIOM, la cosiddetta ala riformista, che fa capo a Fausto Durante, e poi che è su posizioni appunto posizioni della segretaria generale della Camusso, appunto aveva proposto di firmare con riserva le intese di Mirafiori e Pomigliano, considerando il fatto che la maggioranza dei lavoratori avevano detto sì a quelle intese. Quindi noi non condividiamo il contenuto di quelle intese, diceva appunto la minoranza interna, ma le firmiamo, sia pur con riserva, perché rispettiamo i voleri della maggioranza dei lavoratori. Quindi come vedi anche insomma all'interno del sindacato c'è una certa una cosa la possiamo dire in chiusura, che sicuramente comunque è uno la pensi, la Fiat di Sergio Marchionne, le proposte che arrivano dalla Fiat, volete che investiamo 20 miliardi nel progetto Fabbrica Italia, cambiamo i modelli contrattuali, stanno rimescolando tutte le carte anche all'interno della CGIL che sembrava più compatta e all'interno della FIOM che sembrava quasi monolitica. L'effetto Marchionne, ripeto, comunque in qualunque modo non la pensi, su questo è indubbio. Grazie a Giorgio Pogliotti del Sole 24 Ore, da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata, noi ci risentiamo e Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.